Euroreportage. Sul treno di Europa Creativa siamo passeggeri o spettatori? Di Silvia Bernardi. Il treno delle industrie culturali e creative europee sta passando. Siamo passeggeri o spettatori? Sul treno ci sono 1 miliardo e 46 milioni di euro da investire nella comunicazione, nello spettacolo, nelle arti audiovisive e cinematografiche fino al 2020. Europa Creativa è il programma quadro che finanzia progetti che devono promuovere sia la capacità del settore culturale e creativo di operare a livello transnazionale, sia la mobilità di opere e operatori culturali. Ma com'è andata la prima fase della programmazione UE 2014-2020? La cultura ha sempre un peso marginale nelle politiche, ma qualcosa sta cambiando in positivo soprattutto negli indirizzi di programmazione. Si tende sempre più ad abbandonare l'idea del compartimento stagno, per cui l'ambiente, l'industria, la cultura, l'educazione sono ambiti distinti che rispondono ciascuno a determinati gruppi di interesse, elaborando proprie strategie e soprattutto definendo le proprie priorità. Ora la parola d'ordine sembra essere creare connessioni. Un indirizzo che, nel caso della cultura, vuol dire soprattutto andare a cercare spazi e risorse nella creazione di nuovi ponti e di nuove sinergie con altri settori, piuttosto che limitarsi a difendere i propri spazi ridotti a perenne rischio di ulteriori tagli. Lo dice Pierluigi Sacco, professore di economia della cultura all'Università Yulm di Milano, membro dell'European Expert Network on Culture. Il ciclo di programmazione 2014-2020 parte con una carenza di fondo, cioè in ultima analisi, mentre in altri settori c'è una chiarissima idea del fatto che l'Europa deve andare a competere sui mercati globali, ottenere quote di mercato o difendere quote di mercato, in questo settore, malgrado la grande enfasi che comunque c'è naturalmente sulla dimensione produttiva e imprenditoriale della cultura, è come se qui competere, costruire quote di mercato fosse strategicamente meno importante. Ecco, questa è un po' una delusione purtroppo, e quindi questo è un primo aspetto da cui partire. Cioè, l'Europa ha questa finestra di opportunità, finita questa finestra non sapremo bene come sarà fatta la geografia della produzione culturale, il fatto sta che in questa finestra per il momento, e presumibilmente a questo punto è un giudizio abbastanza definitivo, non c'è in realtà una grande visione di come collocare questa cosa nel contesto più ampio. La creazione di un sistema delle industrie culturali creative passa attraverso cinque azioni fondamentali, a partire da una relazione più efficace tra il sistema della formazione e i settori creativi, passando per l'accesso al credito, un vero ostacolo per le industrie culturali creative, e dall'accesso ai mercati che la rivoluzione digitale ha evidentemente cambiato nella sua struttura. Altro punto è l'internazionalizzazione. Un impulso più incisivo alla promozione e all'esportazione dei prodotti creativi europei è sempre più urgente, e infine vanno potenziati i crossover tra la cultura e gli altri settori. Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, indica la posizione dell'Europa in materia di cultura. L'Europa si è data un programma Europa 2020 che è come un orizzonte di nuova strategia per la crescita e lo sviluppo, quindi non solo austerità. Questo programma ha tre obiettivi strategici: una crescita intelligente, quindi la prima parola vuol dire più cultura, più istruzione, più ricerca, più innovazione. E questo è un dato che dovremmo tenere molto a mente, e tutti i comparti devono essere attraversati da questa consapevolezza che se non si investe nel capitale umano, nella ricerca, nell'innovazione, in qualunque settore, con una così rapida trasformazione dell'economia europea e mondiale, l'Europa rischia di non giocare la sua partita, pur avendo delle risorse straordinarie, non le materie prime, ma risorse di intelligenza, di qualità della vita, di stile, di modello sociale europeo, anche se attraversata dalla più grande crisi del dopoguerra, e quindi dobbiamo veramente, come dire, concentrare su alcuni obiettivi strategici il sistema Europa e il sistema Italia. La seconda parola di questa crescita è crescita sostenibile. Io da tempo sono anche relatore di uno dei programmi europei europei, ho avuto questo onore e anche questa responsabilità, e cioè Europa Creativa, che è un programma 2014-2020 che riguarda i comparti cultura, creatività, audiovisivo e multimedia, perché ormai i confini col digitale sono dilatati di tutti questi comparti. Ritengo che la parola sostenibilità dello sviluppo non sia declinabile soltanto con la sostenibilità ambientale, importantissima, sociale, economica, ma anche culturale. Ecco, io penso che la parola cultura deve trovare più spazio nel concetto di uno sviluppo che sia appunto sostenibile, e come quarto asse della sostenibilità. Terza parola magica è la crescita inclusiva. Noi sappiamo che questo è un periodo di grandi disuguaglianze che si sono accresciute, economiche, sociali, di opportunità. Credo che tutta la programmazione europea è fatta anche per recuperare gli squilibri che ci sono fra paesi, fra territori e all'interno di questi paesi, pensiamo a nord, sud, aree interne, città metropolitane e realtà rurali, eccetera, e quindi anche fra giovani che hanno opportunità, che non le hanno e che devono avere una cittadinanza europea molto più efficace e reale. E l'Italia in che classe viaggia sul treno delle politiche culturali europee? In prima classe, poiché ha 4 regioni tra le prime 25 a livello europeo per dimensione del settore culturale. Ma bisogna lavorare di più per creare una politica organica e coerente di supporto e promozione dell'industria creativa. Non mancano le iniziative private dal basso, che presentano spesso caratteri fortemente innovativi, conferma ancora Pierluigi Sacco. Ma è chiaro che senza una visione di sistema sarà difficile per le nostre imprese creative difendere la loro competitività a livello europeo ed internazionale. E serve soprattutto una maggiore preparazione da parte di chi candida progetti. Il vero problema su cui ci dobbiamo adoperare, la drammatica emergenza in questo settore nel nostro paese, sono le competenze. Le competenze, non tanto, attenzione, perché questo viene spesso detto ed è profondamente ingiusto, non le competenze dei produttori culturali. Da questo punto di vista, anzi, l'Italia, secondo me, rimane un paese quasi miracoloso, nel senso che pur in queste condizioni di assoluta precarietà continuiamo ad esprimere una progettualità culturale di livello eccellente. Cioè, il problema è chi deve tradurre questa operatività in progetti, secondo i formati spesso molto complessi, spesso volutamente astrusi, perché anche questo crea selezione, che permette di accedere alla competizione europea, e ancora peggio, le competenze dei decisori, di quelli che fanno le politiche economiche, di quelli che stilano i bandi, che molto spesso danno luogo, e lo dico anche da valutatore che si è trovato certe volte a valutare progetti insensati, perché insensato era il bando che chiedeva delle cose che non stavano in cielo e in terra, costringeva i poveretti che volevano aspirare a ricevere quei soldi di snaturare completamente i progetti, trasformandoli in mostri privi di senso. Allora, il nostro problema è questo. Noi abbiamo un deficit spaventoso di competenze tecniche, non nella produzione culturale, ma in quella componente di filiera che trasforma queste in opportunità economiche e che permette di accedere alle risorse europee. Se da questo punto di vista, durante questo ciclo, non facciamo qualcosa, anche questo cambio di direzione, che dal nostro punto di vista potrebbe significare molto, rischierebbe di diventare per noi un'occasione sprecata. Infine, conclude Silvia Costa, particolare attenzione ai fondi strutturali regionali, lo strumento che hanno i singoli paesi per veicolare finanziamenti europei. I bandi li fa l'Europa, ma di inserire cultura, patrimonio culturale, sostegno all'industria culturale e creativa, anche al cinema e tutto quello che può essere questo tipo di azione, che per l'Italia è di un'importanza strategica, dentro i fondi strutturali, sono ben 325 miliardi nei prossimi 7 anni, 32 miliardi andranno all'Italia e che saranno poi gestiti prevalentemente dalle regioni, e lì c'è una sfida di governance e di capacità di strategica, e l'altra è quella dentro Horizon 2020. Horizon 2020, che non aveva una parola sulle l'heritage e sulla cultura, l'abbiamo reinserito insieme alle scienze umanistiche, e oggi grazie a noi, lo dico con grande franchezza, abbiamo la possibilità, penso alla ricerca in campo umanistico, alla ricerca in campo culturale, penso anche al digitale applicato al patrimonio culturale, che è una enorme potenzialità di lavoro e di ampliamento dell'offerta, è dentro grazie al lavoro che abbiamo fatto in Parlamento. Thank you. l'Europa non è un bancomat, l'Europa è una, dovrebbe essere sempre più una visione condivisa di idea di sviluppo, di riequilibrio sociale, di civiltà e di democrazia, e a servizio di questo che si fanno i programmi e ci sono i fondi. Ecco, rimettiamo in gerarchia giusta le cose, però penso che queste opportunità in questo momento sono gli unici fondi aggiuntivi per lo sviluppo, non ce le possiamo far sfuggire. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.